Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia della R e della doppia R. 1. Vieni a trovarmi, passeremo una bella serata. La serrata è uno sciopero di negozianti. 2. Giorgio è un caro amico. Il carro serve per trasportare merci. 3. I cantori di Assisi sono un coro famoso nel mondo. Aspettami, corro subito da te. 4. Il faro è spento. Il farro è una varietà di frumento. 5. Rosso di sera, bel tempo si spera. D'inverno rimetto i fiori in una grande serra. 6. Ieri ero a casa. Se non erro, il libro è del 2005.